Settimana abbiamo deciso di esagerare, cioè non una ma ben due interviste. Io e Mauro abbiamo intervistato una band a testa e queste band si esibiranno entrambe sabato sera a Bologna, insomma per rendervi un pochino il sabato sera più movimentato se volete. In vista delle feste iniziamo a scaldarci con i Supernovos che Mauro ha intervistato per voi e che si esibiranno al Covo Club sabato sera. Io ho intervistato gli Ofame che invece si esibiranno al Mikasa. Beh insomma scegliete voi, noi intanto li abbiamo intervistati, sentirete prima gli Ofame e poi i Supernovos, dei pezzi delle band per riuscire un pochino a capire cosa vi piace di più tra le due, e a questo punto è tutto in mano vostra. Buon ascolto! Siamo al telefono per prepararci a questo fine settimana con un artista che suonerà proprio a Bologna. Questo artista ha il nome di battesimo che è Cristiano, ma sarà sul palco con il suo progetto che si chiama Ho Fame. Ciao Cristiano, benvenuto. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Allora, grazie per essere qui con noi, io ti volevo fare un pochino di domande. La prima riguarda proprio questo tuo progetto, perché sappiamo che non è il tuo primo progetto musicale. No, io suono da diversi anni. Ho Fame nasce precisamente nel 2014, quando ho pubblicato il primo disco, però io suono da diversi anni in altre esperienze, soprattutto con gli X-Mary, che sono diciamo il mio gruppo maggiormente conosciuto in Italia e all'estero, e ne abbiamo fatto 8 dischi, sì, abbiamo suonato dappertutto in Italia, in Europa e in giro dal 2004. E invece poi nel 2014 appunto inizi questo nuovo percorso, che è anche un po' diverso come sonorità se non sbaglio, no? Cos'è successo? Sì, sì. C'era l'esigenza, come spesso accade alle persone che fanno musica, che iniziano con una band e poi, man mano che crescono, si ha l'esigenza proprio di condividere in modo singolare, valutare tutto personalmente. Quindi nel 2013-2014 ho avuto l'esigenza proprio di scrivere un disco in prima persona, curare la musica, i testi, di essere un po' l'artefice di un disco mio, tutto mio. E poi sei accompagnato anche da una voce femminile, giusto, che è Chiara, e anche da altri due musicisti nel tuo tour. Adesso con questa formazione siamo in 4, siamo noi due alla voce e poi con noi ci sono anche Michele alla batteria, Michele Napoli, e Marco Giacomini alle chitarre elettriche. E come hai conosciuto questi musicisti? Come spesso capita ai musicisti, ci capita di collaborare con tantissime persone nell'arco del tempo, perché anche la musica, le idee nascono dalla condivisione, spesso quando si creano dei brani con persone che tu non conosci perfettamente, si creano quelle novità, quelle suggestioni che sono importanti per creare sempre nuove canzoni. Loro li conosco da diversi anni, suonano in altri progetti e qualche tempo fa chiesi a loro se volevano partecipare alla realizzazione del disco e alle date del tour, e loro fortunatamente mi hanno detto di sì. Per ora va tutto bene, e infatti poi siete in giro con tantissime date, poi parleremo anche di questo tour che vi sta portando in giro. Invece io ti volevo chiedere un po' dell'evoluzione della tua musica, perché dal 2014 ad oggi sono usciti 3 album tuoi, se non sbaglio. Il primo, che ha un titolo bellissimo che mi piace tantissimo, che è O Barche che bramate la tempesta, come questo porto è tranquillo, giusto? Sì, testimoniare quell'inquietudine che avevo in quel periodo, è un po' una metafora. Come hai detto tu, appunto, il primo album, le sonorità cambiano. Nel primo album, appunto, dici che era una testimonianza della tua inquietudine del momento. Nell'ultimo album è cambiato anche il modo di raccontare. Sì. Com'è evoluta la tua storia in questi 3 album e il tuo modo di raccontarli? In questi 3 album, il primo è stato scritto di getto, proprio c'era l'esigenza in quel periodo di trascrivere le mie sensazioni, i miei pensieri, le mie inquietudini appunto. Nel secondo incomincio un po' a valutare la questione, cioè di non soffermarsi solo sulla propria esistenza, ma di osservare anche il mondo. Il terzo, questo un istante, è una chiara valutazione del rapporto tra uomo, mondo e tempo e vita. Infatti il titolo Un istante non è casuale, il fatto che il mio consiglio, almeno spero sia questo, che venga recepito, è di concentrarsi esclusivamente sul presente e di non, tra virgolette, perdere del tempo nei ricordi o nel passato o nel progettare il futuro, ma concentrarsi sul presente, vivere l'istante. Perfetto, allora proprio da quest'album ascoltiamo un pezzo che adesso mandiamo e poi torniamo da te. Affranto di vergogna, le notti bianche, lungo esilio, la gioventù sul viso, le labbra strette, il suo sorriso, un'ossessione, il desiderio. La giovinezza, il desiderio. Un giorno intero è diventando cupo, si nascondeva, scappa via di qui, oltre la strada, da solo muore dentro. Aver ascoltato questo brano da un istante, io ti volevo chiedere, in un'intervista tu hai detto: in questo album mi sono concentrato molto sui testi e ho cambiato il modo di scrivere. In che modo hai cambiato la scrittura e anche il perché? Perché hai deciso di comunque modificare il tuo modo di scrivere? Sì, adesso il mio modo di scrivere si è complicato maggiormente, nel senso che prima scrivevo le cose che mi arrivavano immediatamente in mente, le modificavo pochissimo e le cantavo così. Ora, al contrario, i testi sono scritti e riscritti decine di volte. In questo disco ho impiegato un anno, poco più di un anno, per scrivere 10 brani e ogni brano è stato riscritto penso una ventina di volte, perché cerco il connubio, il matrimonio tra la parola e la singola nota. Voglio che quando ci sia la canzone, che passi la canzone, che le parole siano legate strettamente alla musica, che sia proprio un'unica cosa. Nel tuo scrivere le canzoni sei in solitaria, diciamo, o anche gli altri membri della band hanno un altro con influenza? I brani nascono semplicemente in casa, in solitudine, chitarra e voce, in una struttura molto, come posso dire, essenziale. Chitarra e voce, mi suono un bel po' nel tempo, attendo, li faccio maturare quasi come dei bei vini, e poi quando sono pronti, che almeno io li ripeto pronti, li comincio a condividerli con gli altri, sento i loro consigli, vedo cosa nasce insieme agli altri musicisti e dopo un po' lo registriamo. E la lavorazione di un singolo pezzo, no? come un pezzo di artigianato, quanto tempo richiede normalmente? Non c'è un vero e proprio, comunque diciamo che ogni anno prepariamo una decina di brani in un anno. Riguardo poi la preparazione dei brani, una volta preparati nasce l'album e poi c'è anche il tour, proprio quello che ti sta portando in questo periodo, anzi come mi dicevi prima, da tanto tempo adesso siete in giro e presto sarete di nuovo a Bologna. Come sta andando il tour e ti chiederei anche qual è stata la tua data preferita, ecco. Allora, il tour sta andando molto bene. Noi abbiamo proprio l'esigenza di condividere la musica dal vivo con le persone, perché è vero, i dischi e le canzoni nascono in casa e nella cerchia ristretta dei musicisti, però il momento principale della musica e del disco nuovo è condividerlo con le persone. Un po' tutta la vita, secondo me, le cose più belle nascono nella condivisione. Il tour va molto bene, stiamo suonando in Italia, abbiamo fatto delle date anche in Germania, Repubblica Ceca, in Svizzera, siamo appena tornati dalla Svizzera, l'anno prossimo andremo in Spagna e ritorneremo in Germania. Le date più belle, direi quella di ieri, perché è quella che ricordo maggiormente. Abbiamo suonato a Ravenna, al Chinotto, ed è stato un concerto molto sentito. Le persone hanno condiviso con noi l'ora e mezza di concerto, ci hanno fatto delle domande, ci hanno chiesto dei bis, ci hanno chiesto informazioni sulle canzoni, sui testi. Ecco, ci aspettiamo questo, la condivisione con gli altri dei concerti. Allora, vi seguiremo sulle vostre pagine Facebook, Instagram e tutte quelle che avete, insomma, tutti i social che, se vuoi, ricordiamo. Sì, abbiamo praticamente tutto, come per tutti i gruppi. Abbiamo la pagina di Facebook, Ofane, Instagram, YouTube, SoundCloud. Basta digitare Ofane su Google, compare tutto. Allora però ci concentriamo sulle prossime date, quelle che ci sono da qui a fine anno, quindi nelle prossime settimane. Siamo sabato, al mio caso, venerdì siamo a un festival a Mezzago che si chiama Try Again Fest, che è vicino a Milano. Venerdì, sabato siamo a Bologna al Micasa e domenica siamo all'Arci Cinaschi di Termide. Tra l'altro, visto che a Bologna siete ritornati più e più volte, hai un legame particolare con questa città? Sì, noi abbiamo un forte legame con tutta la città da diverso tempo. Io poi con gli X-Mary, l'altra mia band, a Bologna ho suonato diverse volte, tantissime volte, in praticamente penso tutti i locali, e con Ofane anche quest'anno è il quinto concerto che facciamo a Bologna. Perfetto, allora noi vi aspettiamo sabato, per chi vi ha già visto nei precedenti concerti o chi ancora non vi ha visto. Prima di salutarci io ti chiedo se ci consigli un brano per chiudere questa intervista, quello che noi non ci immaginiamo, stupiscici. Allora io vi metterei L'esistenza. Perfetto. È uno dei brani più nascosti del disco nuovo.